195. Crescioni. Perché si chiamano crescioni e non tortelli di spinaci? Vattene a pesca. So che si lessano degli spinaci secondo l'uso comune, cioè senza acqua, e spremuti bene si mettono, tagliati all'ingrosso, in umido con un soffritto di olio, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Poi si aggraziano con un po' di sapa e con uva secca a cui siano stati levati gli acini. In mancanza della sapa e dell'uva secca, si supplisce con lo zucchero e l'uva passolina. Poi questi spinaci così conditi si chiudono nella pasta matta numero 153, intrisa con qualche goccia d'olio, tirata a sfoglia sottile e tagliata con un disco all'incirca di 7,5 cm. Questi dischi si piegano in due per far prender loro la forma di mezzaluna. Si stringe bene la piegatura e si friggono nell'olio. Servono come piatto di tramesso. 196. Crocchette. Si possono fare con ogni sorta di carne avanzata e si preparano come le polpette del numero 314, senza però l'uva passolina e i pinoli. Invece si può dar loro, piacendo, l'odore dell'aglio, unendovi anche qualche foglia di prezzemolo. A queste crocchette conviene meglio dare la forma a rocchetti e generalmente si mangiano soltanto fritte.